Allora, siano sempre lodati Gesù e Maria. Ora, questa sera con l'aiuto del Signore e della Madonna vedremo insieme i cicli del profeta Eliseo. Ecco, questo è abbastanza poco conosciuto, il profeta Eliseo, però è una storia davvero avvincente. No. Perché ricorderemo la volta scorsa, abbiamo concluso, Eliseo è il successore di Elia. E quindi ne continua in parte il ministero profetico, quindi si situa tra i primi grandi profeti di Israele, insieme appunto a Elia. Ecco, poi quando arriveremo ai profeti approfondiremo un pochettino il ministero dei profeti maggiori e dei profeti minori. Ora qui vediamo, ecco, appunto nella foto il passaggio del testimone, quindi quando Elia sale sul carro di fuoco ed Eliseo, vi ricordate, l'abbiamo lasciato così la volta scorsa, implora: dammi almeno un po' del tuo spirito, se riesci a prendere un po' il mio mantello che cade mentre io salgo lo avrai, e altrimenti no. Il ciclo di Eliseo è narrato nel secondo libro dei Re, dal capitolo 2 al capitolo 13. E vi preannuncio subito che Eliseo è, chi sta a messa lo ha già sentito durante l'omelia, è un personaggio che ha fatto tantissimi miracoli, quindi è stato è il primo personaggio biblico. Bene, anche Mosè durante l'uscita di Israele dall'Egitto aveva fatto tantissimi miracoli, ma Eliseo ne fa davvero una quantità poderosa, ne vedremo alcuni, alcuni citati anche nei brani del Vangelo, perché se vi ricordate Eliseo è citato, lo vedremo, nel discorso che Gesù fece nella sinagoga di Nazareth. Lui citò due episodi, uno l'abbiamo già visto, la vedova di Sarepta di Sidone, e l'altro il caso della guarigione miracolosa di Naaman il Siro. E ecco, però è il primo grande personaggio biblico che fa veramente tantissimi miracoli, miracoli che sono dei carismi straordinari che Dio ha concesso a tanti santi. I miracoli sono stati fatti da Eliseo e sono stati fatti da tantissimi santi. Ci sono alcuni santi che hanno fatto veramente una quantità incredibile di miracoli, e vedremo. A me personalmente, vi dico, Eliseo ricorda tanto la figura di Sant'Antonio, non quello di oggi, di Sant'Antonio da Padova, anche perché alcuni miracoli che ha fatto sono perfettamente identici a quelli di Sant'Antonio. Ecco, e quindi una figura che ci fa riflettere su questo dono straordinario che il Signore fa, cioè di santi che fanno miracoli ce ne sono sempre stati, Gesù li ha fatti i miracoli non sono la cosa più importante che possa fare un uomo, però sono uno dei segni inequivocabili del fatto che Dio è con quella persona. Vi ricordate che, sapete che quando la Chiesa canonizza un santo, cioè per canonizzare qualcuno, quando diventi venerabile vuol dire che tu hai praticato la cosa più importante è diventare venerabili, perché vuol dire che uno ha praticato le virtù cristiane in grado eroico, quindi quella è la cosa più importante. Però per diventare beato prima e santo poi ci devono essere dei miracoli accertati, perché quando un miracolo è veramente tale, quello è il segno inequivocabile della presenza di Dio. Cioè, quelli che sono noti come i carismi straordinari, scusate se mi dilungo un po', andiamo un pochino più veloci nelle slide, ci sono alcuni segni in presenza dei quali, quando noi li vediamo in qualcuno, dobbiamo credere fermamente che Dio è con lui. Uno è se fa i miracoli. Se fa i miracoli, sapete che la gente, cioè il popolo di Dio, insegna la Chiesa, c'ha il fiuto, si chiama il sensus fidelium. Sensus fidelium è una parola quasi intraducibile, in italiano, cioè è la percezione che i battezzati hanno di dove c'è la presenza di Dio, e ci vanno. Quindi quando ci stanno dei miracoli veri, lì c'è Dio, sicuro, non c'è proprio alcun dubbio, perché i miracoli fa soltanto il Padre Eterno. Quando una persona è molto forte contro il diavolo, c'è Dio, sicuramente, perché vi ricordate quello che disse a Gesù? Tu scacci i demoni nel nome di Belzebù? No, perché se io scacciassi i demoni nel nome di Belzebù vorrebbe dire che il regno del mare è diviso in se stesso, se fosse diviso in se stesso sarebbe fragile, ma noi sappiamo che il regno del mare è potente, perché sono compatti nell'odio. Quindi se uno scaccia i demoni vuol dire che li scaccia col dito di Dio, come dice Gesù nel Vangelo. La terza cosa, anche questo ci aveva Eliseo, è la conoscenza infallibile, lo vedremo, degli eventi futuri. Cioè il futuro lo conosce infallibilmente soltanto il Padre Eterno. Cioè il Signore potrebbe, non lo fa, lo dico anche ai ragazzini del catechismo, potrebbe divertirsi a fare un po' di giochi, cioè potrebbe prendere una busta chiusa e dire a ciascuno di noi: tu domani alle 3:32 e 14 secondi starai in questo posto, starai dicendo queste cose, starai facendo quest'altro e starai pensando quest'altro. Tu apri quella cosa alle 5 minuti dopo e controlli se è vero oppure no. Quindi il diavolo non lo conosce il futuro, cioè il diavolo è intelligente, quindi può fare delle previsioni, ma mai puntuali e precise al 100%, perché la conoscenza certa dei futuri contingenti è proprio soltanto di Dio, la cui mente, che è eterna, abbraccia in un unico pensiero il presente, il passato e il futuro. Ecco, tutte queste cose Eliseo le ha fatte tutte. Quindi ci abbiamo concentrati in questa figura biblica una massa straordinaria di carismi che poi in alcuni grandi santi si sono trovati concentrati. Pensiamo per esempio a Padre Pio, ce l'aveva tutte queste cose anche lui di Eliseo. E poi in altri grandi santi famosi per i miracoli, grandi santi famosi per la potenza contro i demoni. Per esempio il santo di oggi, Sant'Antonio Abate, l'ho detto, era potentissimo contro i demoni. Altri famosi per la conoscenza degli eventi futuri, ecco. Sono tutti quanti carismi che attestano che sta dinanzi un uomo di Dio. State attenti, eh? Ci sono anche uomini di Dio che sono uomini di Dio senza avere carismi straordinari. Però sicuramente quando stai di fronte a un carisma straordinario, quello è un uomo di Dio. Non c'è possibilità alcuna che sia un bluff, insomma, che sia un inganno da parte del diavolo. Quindi, fatta questa lunghissima premessa, passiamo al merito e cominciamo a leggere alcuni miracoli di Eliseo. Qui vediamo uno dei grandi portentosi miracoli di Eliseo, che ha risuscitato il figlio di una donna. È il primo caso, quindi la prima risurrezione non l'ha fatta Gesù risuscitando la figlia del sinagogo o il figlio della vedova di Nain. La prima risurrezione l'ha fatta Eliseo nella Sacra Scrittura, e la vedremo poi. Allora, andiamo a leggere adesso, sono episodi, alcuni sono, i primi sono abbastanza brevi, per esempio il miracolo delle acque, che si trova in secondo libro dei Re, adesso lo andiamo a trovare, non mi ricordo più il capitolo, 2:19-22. Ma questo è il secondo libro dei Re, sì. Ok. Gli uomini della città dissero a Eliseo: ecco, è bello soggiornare in questa città. Qui è subito dopo, scusate, il contesto è subito dopo l'ascesa al cielo di Elia, subito, il primo episodio che si colloca dopo quello che abbiamo visto la volta scorsa. Gli uomini della città dissero a Eliseo: ecco, è bello soggiornare in questa città, come il mio signore può constatare, ma le acque sono cattive e la terra provoca aborti. Ed egli disse: prendetemi una scodella nuova e mettetevi del sale. Gliela portarono. Eliseo si recò alla sorgente delle acque e vi versò il sale, dicendo: così dice il Signore, rendo sane queste acque, da esse non verranno più né morte né aborti. Le acque rimasero sane fino ad oggi, secondo la parola pronunciata da Eliseo. Questo è il primo grande miracolo di Eliseo. Prima di commentarlo, leggiamo anche insieme il secondo, che è immediatamente seguente, molto edificante, che è la maledizione dei fanciulli insolenti. Questo dobbiamo farlo leggere a qualche mamma di oggi, eh? Allora, subito dopo, di lì Eliseo salì a Betel. Mentre egli andava per strada, uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: sali calvo, sali calvo. Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono dalla foresta due orse che sbranarono 42 di quei bambini. Di là egli andò al Monte Carmelo e quindi tornò a Samaria. Con la Bibbia e con l'Antico Testamento ho già detto che bisogna abituarsi a molte di queste cose. E poi io mi devo andare a confessare, perché ogni tanto mi viene il pensiero, il peccato che non si possono fare più, però l'ho già detto scherzando, ma neanche troppo. I telefoni devono stare spenti durante l'incontro biblico. Allora cominciamo dal secondo. Questo episodio, di adesso non vi rifaccio tutte quante le discorsi che ho fatto quando ci siamo approcciati allo studio dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento vi sono delle cose imperfette. Anche lì ha fatto fuori 400 profeti di Baal, beato lui, e li ha passati a fil di spada uno per uno, cose che non si possono fare più nell'Antico Testamento, no? Però questi gesti, pur essendo ovviamente dopo la venuta di Gesù, da essere recepiti, dicevano i Romani, cum grano salis, hanno però un insegnamento che rimane. L'insegnamento che rimane da questo è che l'insolenza dei bambini è cosa brutta e grave e non deve essere tollerata. Certamente non bisogna maledirli e chiedere che le orse li sbranino vivi, d'accordo? Però chi è incaricato dell'educazione dei bambini la deve riprendere questa cosa, la deve correggere. Io tante volte ho visto queste cose e ho visto anche dei ragazzi, anche davanti ai genitori, fare delle cose, oppure per esempio, perdonatemi, è capitato di sentire dei ragazzi mettersi a fare gli sciocchi, insomma, facendosi beffe davanti ai genitori, non so, di un professore o di qualcuno, e i genitori che ridono. Questo non va bene. Adesso dite. Le orse che se li sbranano, no, però, oppure cioè, bambini davanti alla madre o al padre, come dire, farsi beffe dei nonni o delle persone anziane, queste cose brutte sono, che non vanno fatte. Quindi l'insegnamento attraverso questo castigo esemplare, consono all'Antico Testamento, non al Nuovo, è che questa cosa è una cosa che non si deve fare. Mentre il primo miracolo, ecco, l'acqua che è fonte di vita e che invece diventa cattiva e che produce morte, purificata dal sale, è un episodio che si presta chiaramente a interpretazione simbolica. Ecco. È un pochino, diciamo così, la situazione dell'uomo terreno. San Paolo lo chiamerebbe l'uomo vecchio o l'uomo di carne. Sapete che il sale è un sacramentale molto molto importante. Adesso i moderni lo hanno eliminato, ma per esempio nel battesimo, il rito antico, c'è il rito del sale, che è un rito antichissimo, perché il sale è un elemento dal fortissimo contenuto simbolico, che è simbolo nel Nuovo Testamento principalmente della sapienza. Quando Gesù dice voi siete il sale della terra, vuol dire voi siete coloro che dovete dare senso, sapore e colore a tutte le cose che si vivono nella terra. Ma il sale c'ha anche altre due significazioni, quindi dà sapore, però adesso che fa freddo e che è inverno, voi sapete benissimo che il sale preserva, esatto, dal congelamento, dal ghiaccio. Il freddo nella Bibbia è simbolo del male, del peccato. Eh sì, mentre il fuoco, il caldo, è simbolo della carità, quindi del duplice precetto dell'amare Dio e dell'amare il prossimo, il freddo, che al contrario è simbolo del contrario di ciò che questi precetti significano. Così come il sangue ha anche un'altra funzione, non preserva soltanto dal congelamento, preserva anche dalla corruzione, perché se voi volete impedire alla carne di farti guastarsi, dovete metterla sotto sale, quindi preserva dal congelamento e preserva anche dalla corruzione. Quindi capite che sono tutte quante proprietà consone a ciò che viene dall'alto, quindi alla sapienza, ecco, che si acquisisce attraverso la fede e la formazione. Noi non possiamo diventare sapienti se non ci mettiamo alla scuola e all'ascolto di Dio, perché la sapienza viene dall'alto, dice San Paolo, mentre non possiamo essere preservati dal male se non attraverso la grazia, e non possiamo essere preservati dalla corruzione, che è la morte eterna, se non attraverso una vita in grazia e di fedeltà al Signore. Quindi questo per dirvi perché usa il sale, insomma, per fare questa, cioè i gesti della molti gesti dell'Antico Testamento, che se uno li legge dice: ma che cos'è questo episodio? E poi perché l'acqua non provoca più morti mettendoci il sale? Ecco, ci sono molti gesti dell'Antico Testamento che non possono essere compresi se non attraverso alcune cariche simboliche che noi conosciamo e comprendiamo dal Nuovo Testamento. Poi, altro episodio, stavolta andiamo, ci spostiamo al capitolo 4, perché nel capitolo 3 c'è un intermezzo di episodi attinenti ai re regnanti in quel tempo in Israele, che è l'olio della vedova. Anche questo è un episodio molto, diciamo così, grazioso ed edificante. Lo andiamo a prendere. Una donna, una delle mogli dei figli dei profeti, gridò a Eliseo: mio marito, tuo servo, è morto. Tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il creditore per prendersi come schiavi i miei due bambini. Eliseo le disse: che cosa posso fare io per te? Dimmi che cosa hai in casa. Quella rispose: in casa la tua serva non ha altro che un orcio d'olio. Le disse: va fuori a chiedere vasi da tutti i tuoi vicini, vasi vuoti e non pochi. Poi entra in casa e chiudi la porta dietro a te e ai tuoi figli. Versa olio in tutti quei vasi e i pieni mettili da parte. Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a sé e ai suoi figli. Questi deporgevano e lei versava. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: porgimi ancora un vaso. Le rispose: non ce ne sono più. E l'olio cessò. Ella andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: va, vendi l'olio e paga il tuo debito. Tu e i tuoi figli vivete con quanto ne resterà. Quindi c'è la moltiplicazione di questo olio, che serve fondamentalmente a procurare a questa famiglia un patrimonio, diciamo così, da vendere per pagare i debiti. Quindi è un miracolo, diciamo così, causato dall'amore fraterno, quindi dalla misericordia verso la povera gente. Anche di questo la storia della Chiesa ne è stracolma. Ecco, poi c'è quello clamoroso e sommamente importante, che è la risurrezione del figlio della Sunammita, che è l'episodio immediatamente seguente, un pochino lunghetto, dal versetto 8 al versetto 37. Un giorno Eliseo passava per Sunem, dove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: io so che è un uomo di Dio, un santo, vedete? Colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare. Un giorno che passò di lì si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Egli disse a Gezi, suo servo, chiama questa sunammita. La chiamò e lei si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo, dille tu, ecco, hai avuto per noi tutta questa premura, che cosa possiamo fare per te? C'è forse bisogno di parlare in tuo favore al re o al comandante dell'esercito? Ella rispose, io vivo tranquilla con il mio popolo. Eliseo replicò, che cosa si può fare per lei? Gezi disse, purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio. Eliseo disse, chiamala. La chiamò e la si fermò sulla porta. Allora disse, l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia. Ella rispose, no, mio signore, uomo di Dio, non mentire con la tua serva. Ora la donna concepì e partorì un figlio nel tempo stabilito, in quel periodo dell'anno, come l'aveva detto Eliseo. Attenti che in questo episodio, a prescindere dal miracolo del concepimento del figlio, c'è da riflettere su un'altra importante particolarità, che è la gratitudine. Il concepimento di questo figlio è causato dal fatto che, per un bene ricevuto, tra l'altro un bene ricevuto in quanto santo, Eliseo sente il bisogno di rendere bene per bene. Però attenti che la gratitudine è una cosa molto molto importante, anche se non troppo spesso curata dagli uomini. Ricordate sempre che quando Gesù si è lamentato con Santa Margherita Maria Lacocq, lamentare che hanno dato origine alla devozione e al culto del Sacro Cuore, ha detto che lui è dispiaciuto dagli uomini che nei confronti del suo amore non hanno altro che ingratitudini, freddezze e disprezzi, ma prima di tutto l'ingratitudine. Cioè, state attenti che la gratitudine, dice San Tommaso, che è una parte della virtù cardinale della giustizia. Cioè, quando ti viene fatto un bene, tu sei tenuto a rendere bene per bene. Noi non siamo tenuti a rendere male per male, perché il male va vinto col bene, col perdono, ma il bene va reso col bene. Ecco, è una cosa su cui dobbiamo riflettere. Il bambino crebbe, un giorno uscì per andare dal padre presso i mietitori. Egli disse a suo padre, la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò a un servo, portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il bambino sedette sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Ella salì a coricarlo sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Chiamò il marito e gli disse, mandami per favore uno dei servi e un'asina. Voglio correre dall'uomo di Dio e tornerò subito. Vedete sempre come viene chiamato, è l'uomo di Dio, bellissimo. Quello domandò, per come andare da lui oggi? Non è né luglio né sabato. Ma le rispose a Dio, se l'ho l'asina, disse al proprio servo, conducimi, cammino, non trattenermi nel cavalcare, a meno che non te lo ordini io. Si incamminò, giunse dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo, e quando l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Gezi suo servo, ecco la sunammita, soccorrile, incontralo e domandale, stai bene? Tuo marito sta bene? Tuo figlio sta bene? Quella rispose, bene. Giunta presso l'uomo di Dio, gli afferrò i piedi. Gesi si avvicinò per tirarla indietro, ma l'uomo di Dio disse, lasciala stare, perché il suo animo è amareggiato, e il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. Ella disse, avevo forse domandato io un figlio al mio Signore? Non ti dissi forse non mi ingannare? Eliseo disse a Gesi, cingi i tuoi fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontrerai qualcuno non salutarlo, se qualcuno ti saluta non rispondergli. Metterai il mio bastone sulla faccia del ragazzo. La madre del ragazzo disse, per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Allora egli si alzò e la seguì. Gezi li aveva preceduti, aveva posto il bastone sulla faccia del ragazzo, ma non c'era stata voce né reazione. Egli tornò incontro a Eliseo e gli riferì, il ragazzo non si è svegliato. Eliseo entrò in casa, il ragazzo era morto, coricato sul letto. Entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino, pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui, si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare qua e là per la casa, poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnutì 7 volte, poi aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gezi e gli disse, chiama questa sunammita. La chiamò e quando lei gli giunse vicino le disse, prendi tuo figlio. Quella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì. Quindi vedete il primo episodio della il primo episodio biblico di risurrezione forte. Notate alcuni particolari, che questo ragazzino per risuscitare deve entrare in contatto con tutta quanto una serie di cose che riguardano Eliseo, prima col letto, poi col bastone e poi con dei gesti proprio materiali, concreti. Vi ricordate queste tante cose che Gesù le fa poi nel Vangelo? Vi ricordate quando guarisce, tocca, mette il fango sugli occhi, tocca con la lingua come dire, ferma dei muti, tocca con le dita le orecchie. Allora, questi gesti sono abbastanza importanti perché indicano l'ordinaria necessità del contatto proprio del per questo che noi abbiamo da sempre, noi cattolici, venerato per esempio le reliquie dei santi, perché entrare in contatto reale, fisico, concreto, è uno strumento di santificazione. Se voi fate caso, i sacramenti, anche i sacramenti, sono tutti quanti dei gesti sensibili, cioè la grazia che potrebbe anche arrivarci direttamente in modo spirituale da Dio, non ci arriva così, ci arriva attraverso degli strumenti, in tutti i sacramenti se voi ci fate caso c'è sempre un elemento sensibile: l'acqua nel battesimo, il pane e il vino nell'Eucaristia, l'olio in tantissimi sacramenti, la presenza del ministro nella confessione, c'è sempre qualcosa, sempre. E questo dipende dal fatto che noi siamo uomini, quindi il corpo, che oggi è idolatrato dalla nostra cultura contemporanea, non va idolatrato, però non va neanche, come dire, non considerato o minimizzato, perché noi siamo uomini. Quindi la salvezza degli uomini passa attraverso la concretezza anche dei gesti sensibili. Faccio un altro esempio, lo diciamo sempre un po' di forma. Perché la Chiesa ha sempre condannato e la condanna tuttora la cremazione di un cadavere? Perché? Perché un cadavere non si crema. Se voi andate a... cioè ci sono tutta una serie di gesti. Quando muore una persona, oggi è morta una persona, allora, se in quel corpo non c'è più niente, scusate, che ci va a fare un prete a benedire la salma? Secondo voi che ci va a fare? Che si porta a fare la salma di un morto in chiesa a far funerale? Che ce la porti a fare? Che ce la porti a fare? Se c'è più, che ce la fa al cimitero? Che esistono a fare al cimitero? Perché non hanno sempre bruciato tutti quanti i morti tombi cristiani? Quindi, cioè, non è così. Quindi il corpo non va idolatrato e non va usato per il male, ma il corpo non va neanche minimizzato. Cioè, certamente è la parte meno nobile di noi, il principio della vita del nostro corpo è la nostra anima. Però noi siamo uomini, quindi il corpo è una modalità fondamentale. Gesù anche nel Vangelo dice, la lucerna del corpo è l'occhio. Io quando devo un attimo capire che gli frulla per la testa a qualcuno, la guardo bene in faccia. E se capisce quello che gli frulla per la testa, se lo guardi bene negli occhi, te lo dico io. Anche basta che guardi un po', ho raccontato nei giorni scorsi, non mi ricordo a qualche, c'è stato nei padri della chiesa, altro che Sant'Antonio, non mi ricordo se era San Giovanni Crisostomo, che gli presentarono un giorno davanti l'imperatore appena eletto, l'ha squadrato, l'ha osservato per 2 minuti, quindi come si muoveva, com'era l'aspetto, come stava conciato, come stava vestito, come gesticolava, come camminava. Questo farà soltanto disastri. 2 minuti. Ha fatto soltanto disastri. Dici, come fa? Come si permette? Questo giudica. Non è vero. Perché quando una persona si raffina, cioè il corpo è la modalità esterna con cui noi siamo, con cui appare quello che tu sei. Questo che non va idolatrato, ma va mi ricordo una volta stavo in seminario, stavano a leggere i libri di questi grandi anacoreti, di questi grandi ascetici. Allora c'era uno che rimproverava un amico, dice: cosa fai tu lì, seduto in quel modo, con i piedi incrociati come gli sciocchi? Allora c'erano tutti quelli che c'erano, si sono viste tutte le sedie che si muovevano, tutte le persone che stavano sedute, dice, tutti i piedi incrociati come... Cioè, adesso queste sono cose magari un po'... Però, ecco, non bisogna... Dice, ma queste sono cose esteriori, non contano. Non è vero neanche per niente che sono cose esteriori e non contano. Tutto quello che noi siamo all'esterno tradisce quello che noi siamo all'interno. E se e quando e come una persona cambia all'interno, è necessario che cambi un pochettino anche all'esterno, insomma. C'è sempre questo rapporto circolare tra l'interno e l'esterno. L'interno è chiaramente prioritario, d'accordo? Ma l'esterno manifesta l'interno. Si sta attenti quando vi dicono, dice, ma quel prete non va vestito, ma l'abito non fa il monaco. L'abito non fa il monaco, l'abito però manifesta il monaco. Perché se un monaco non c'ha l'abito, come fai a capire che è monaco? Che c'è il filo diretto con lo Spirito Santo. Quindi va bene, la posizione santamente cattolica, insomma. Stare attenti a quelli che disprezzano, quelli che minimizzano, attenzione, quelli che minimizzano il corpo da un punto di vista spirituale, lo idolatrano da un punto di vista materiale. Dovete sapere che la prima grande eresia, quella di cui parla anche San Giovanni nel libro dell'Apocalisse, che era l'agnosi, gli gnostici dicevano questa cosa: guarda, la salvezza lascia perdere tutte le cretinate, i comandamenti, viene semplicemente da una conoscenza superiore di cose spirituali. Perché la parte più nobile dell'uomo è l'anima? No, certo. Qual è la parte più nobile dell'anima? È l'intelletto? Certo. Il Figlio di Dio chi è nella Santissima Trinità? È il Logos, è il Verbo, è l'intelligenza creatrice. Quindi ti comunica la salvezza attraverso una serie di verità super che non tutti conoscono e che soltanto pochi eletti conoscono. La vita del corpo non conta assolutamente nulla, noi siamo spirituali, quindi puoi fare tutto quello che ti pare, perché tanto quelli non contano, capito? Quindi capite che l'iperspiritualismo poi porta all'animalismo corporeo. Questo è esattamente, per quanto mi riguarda, la diagnosi circa uno dei mali della società contemporanea. Però cambiamo argomento, andiamo avanti con i miracoli di Eliseo, che non sono ancora finiti, ce ne sono ancora, e vediamo quali. Allora, un altro grande miracolo, ecco, la pentola avvelenata. Vedete, questo per esempio è una cosa analoga a quello che è successo a Sant'Antonio quando tentarono di avvelenarlo. Adesso lo andiamo un attimo a vedere, stiamo al capitolo 4 38 41, è l'episodio immediatamente seguente. Eliseo tornò a Galgala, nella regione c'era la carestia. Mentre i figli dei profeti stavano seduti davanti a lui, gli disse al suo servo: metti la pentola grande e cuoci una minestra per i figli dei profeti. Uno di essi andò in campagna per cogliere erbe selvatiche, trovò una specie di vite selvatica, da essa colse zucche agresti e se ne riempì il mantello. Ritornò e gettò i frutti a pezzi nella pentola della minestra, non sapendo che cosa fossero. Si versò da mangiare agli uomini, che appena assaggiata la minestra gridarono: nella pentola c'è la morte, uomo di Dio, non ne potevano mangiare. Allora Eliseo ordinò: andate a prendere della farina, versatela nella pentola, disse, danne da mangiare a questa gente. Non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Un episodio di avvelenamento da cui sono scampati. Ecco, qui stavolta c'è la farina. E sarà questa farina? Allora, anche la farina, esatto, è un simbolo utilizzato da Gesù nel Vangelo. Vi ricordate che c'è la parabola: il regno di Dio è simile a 3 staia di farina impastata che una donna prende e ci mette dentro il lievito finché tutta sia fermentata. Ecco. Dalla farina si fa il pane, Sapete che il pane nella Sacra Scrittura indica tre cose. Numero uno, cos'è il pane? Questo lo ricordate, abbiamo fatto la tentazione di Israele nel deserto che volevano la manna. E poi Gesù che dice non di solo pane io e l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi il pane è ascoltare la parola di Dio, quindi ciò che il pane è per il corpo, ecco, dobbiamo vedere cosa è l'anima, sono tre staglie di farina, quindi, perché il pane significa esattamente tre cose. La seconda cosa qual è il pane? Io sono il pane della vita, dice Gesù nel Vangelo, quindi chi mangia di questo pane vivrà in eterno, e questa sarebbe l'Eucaristia. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Terzo significato, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, voi che siete tutti bravi, che vi ricordate benissimo tutti gli incontri biblici dell'anno scorso, finisce il discorso di Gesù con la Samaritana, arrivano i discepoli e gli dicono, Rabbì, Rabbì, mangia! E lui risponde, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Come ricorderete tutti benissimo, questa è la classica ironia giovannea, dove c'è Gesù che sta sempre col cuore nel cielo e i discepoli che stanno sempre ben piantati per terra. Allora cominciano a chiedersi, ma forse qualcuno l'ha invitato a pranzo, forse qualcuno gli ha già portato da mangiare. E Gesù con tanta pazienza risponde, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere la sua opera. Quindi terzo nutrimento dell'anima, quindi si ascolta la parola di Dio, ci si nutre dell'Eucaristia per fare la volontà di Dio. Tant'è vero che alla fine della messa, dove si è ascoltata la parola di Dio e se ci si è confessati si fa la comunione, si dice ite missa est, perché con quello che hai fatto qui ne hai a sufficienza per essere santo e per poter osservare tutta la parola di Dio. Quindi dagli avvelenamenti dello spirito si scappa mangiando questa santa farina. State attenti che queste interpretazioni un pochino allegoriche degli episodi dell'Antico Testamento erano proprio panne per i denti dei padri della Chiesa. Se andate a leggere le omelie, che cosa tiravano fuori da questi episodi, ci voleva soltanto la fantasia illuminata dallo Spirito Santo di questi grandi santi. Poi c'è un episodio, la moltiplicazione dei pani. Mica l'ha fatta Gesù per primo, sicuramente non è geloso. Dice, qua Eliseo sta a togliere tutti i primati al nostro Signore, perché la risurrezione l'ha già fatta. Ma ha fatto pure già la moltiplicazione dei pani, un guaio proprio qua. Da Baal Salisà venne un uomo che portò pane di primizia all'uomo di Dio, 20 pane d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse, dallo da mangiare alla gente, ma il suo servitore disse, come posso mettere questo davanti a 100 persone? E gli replicò, dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e ne faranno avanzare. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare secondo la parola del Signore. Vedete questi due episodi attigui della farina e del pane. Anche il pane, come la farina, ha significazioni simboliche analoghe a quelle di cui abbiamo appena parlato. Quindi vedete come questo grande profeta. Allora, ancora, e questa è famosa, la guarigione di Naaman il Siro, questo penso che la conosciate. Ce la leggiamo tutta? Oppure vi faccio una sintesi? Ops. Diavoletto, eh? Il diavoletto, eh? Allora, avanti. Allora, Naaman il Siro. L'episodio è troppo divertente, per cui è meglio dargli un attimo un'occhiata, perché è divertente. Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore, stimato, perché per suo mezzo il signore aveva concesso la salvezza agli aramei, ma quest'uomo prode era lebbroso. Quindi, anche lebbrosi, quindi. Ora, bande aramee avevano condotto via, prigioniera dalla terra di Israele, una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Le disse alla padrona: o se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra. Stiamo un pochino più grande, va? Naaman andò a riferire al suo signore: la ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Il re di Aram gli disse: va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Partì dunque prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sigli d'oro e 10 mute di ambite. Portò la lettera al re di Israele, nel quale si diceva: orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Questo al re di Israele. Lettera, il re di Israele si stracciò le vesti, dicendo: sono forse io Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e col suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Adesso guardate cosa fa Naaman, ecco, come tutti i disobbedienti che non obbediscono al padre spirituale, giusto? Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, ecco, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte male e toglierà la lebbra, ma che forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Vedi il demonio? Si voltò e se ne partì adirato. Stava per ritornarsene lebbroso, per quanto era stupido. Allora i poveri servi si avvicinarono e gli dissero: ma padre mio, ma se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse seguita? Che te costa? Vatti a fare un bagnetto, no? Dice: ti ha detto di andare a fare il bagno, vacce, no? Male che vai, sei fatto un bagnetto, che problema c'è? Ti dispiace così tanto? Egli allora scese, si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra, se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Ma i doni non si prendono. Quello disse: per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non lo prenderò. L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanto ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Però il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Quando il mio Signore entra nel Tempio di Rimmon per postarsi, si appoggia al mio braccio e anch'io mi prosto nel Tempio di Rimmon, mentre egli si prosta nel Tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. E gli disse: va in pace, eccetera. D'accordo. Partì a lui e fece un bel tratto di strada. Ora, questo miracolo, questo è il fiume Giordano. 7 volte immergersi nel fiume Giordano, 7 è il numero della perfezione. Il fiume Giordano è un fiume, in questo l'ho battezzato nostro Signore, questa è stata l'interpretazione di tutti quanti i padri. Questo gesto indica, come dire, prefigura gli effetti del sacramento del battesimo. Il sacramento del battesimo toglie la lebbra. Qual è la lebbra profonda dell'uomo? La lebbra profonda dell'uomo è il peccato, però la lebbra, chi si è ammessa tutti i giorni, qualche giorno fa c'era il lebbroso, è particolarmente simbolo di due peccati: l'eresia, quindi chi vive nelle tenebre dell'errore, pensa cose sbagliate, E il peccato impuro, quindi chi vive nelle tenebre del vizio, perché il peccato impuro è quanto maggiormente degradi l'uomo. Tenete presente che la lebbra sfigura un uomo, perché gli cambia i connotati, lo rende mostruoso e puzzolente e contagioso, tra l'altro, perché la lebbra è una malattia contagiosissima. Quindi chiaramente il battesimo, quindi la rinascita dall'acqua e dallo Spirito Santo, toglie la lebbra e dà all'uomo le sette immersioni. Sono simbolo un po' dei sette doni dello Spirito Santo, oppure delle sette virtù cristiane, che sono tre teologali e quattro cardinali. Attenzione a una cosa, lui non accetta ricompense per i miracoli fatti. Non le aveva chiesti, gli viene fatta l'offerta e non la vuole. State attenti. State attenti. Perché gironzolano sedicenti carismatici o cose di questo genere. Ecco, quando uno ha un dono di Dio, non chiede i soldi. Il primo distintivo è che non chiede i soldi. Non, dice, quello non chiede i soldi, mette il cestino con l'offerta. È bravo, così diventi più miliardario che se l'avessi chiesto. Niente. Quindi quando gli sta qualcosa di questo genere, guarigioni, cose strane, eccetera, eccetera, né soldi né, non basta né soldi né offerte, non è sufficiente, però sicuramente ci stanno soldi e offerte zero, d'accordo? Ecco. E alla larga dal mondo dell'occulto, ecco, tutto, anche quello che sembra buono. Non vi dico queste cose perché io sono parroco qui. Anche le scritture automatiche, anche i registratori con le voci dei morti, tutta monnezza che viene dal mondo del male. Ecco, va bene. Infine, un altro episodio un po' misterioso e grazioso, lascia perduta e ritrovata, capitolo 6, da 1 a 7. I figli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, l'ambiente in cui abitiamo presso di te è troppo stretto per noi, andiamo fino al Giordano, prendiamo lì una trave ciascuno e costruiamoci lì un locale dove abitare. Egli rispose: andate. Uno disse: degnati di venire anche tu con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. E andò con loro. Giunti al Giordano cominciarono a tagliare gli alberi. Ora, mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scura gli cadde nell'acqua. Egli gridò: oh mio signore, era stato preso in prestito. L'uomo di Dio domandò: dov'è caduto? Gli mostrò il posto. Eliseo allora togliò un legno e lo gettò in quel punto, e il ferro venne a galla. Disse: tiratelo su. Quello stese la mano e lo prese. Anche questo, che sembra un miracolo sciocco, capite subito da cosa è stato originato. Era una scura presa in prestito. E le cose prese in prestito vanno restituite. E quindi, dal momento che qui sarebbe stata una violazione del settimo comandamento, è stato fatto un miracolo anche per una cosa semplice, per far comprendere quanto è importante osservare anche in questo la virtù cardinale della giustizia. Andiamo verso la conclusione. Vedendo alcuni ultimi episodi della vita di Eliseo. Per esempio, Eliseo guerriero di Dio. Qui c'è un bellissimo episodio, perché non ha fatto soltanto i miracoli, ne ha fatto anche qualcun altro. Allora, questo praticamente è il re di Aram. Allora, qui mostra come nei nostri combattimenti contro i nemici, tenete presente che quando nell'Antico Testamento ci sono nemici del popolo di Dio, dicono i padri, sono sempre figure simboliche dei nemici della nostra salvezza, d'accordo? E capite chi sono. Sembrano sempre più forti e più numerosi, ma qui vedremo che Eliseo li vince perché ha degli alleati invisibili, che scendono in campo e lo fanno vincere. Il re di Aram combatteva contro Israele, in un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe accampato in un certo luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardali dal passare per quel luogo, perché là stanno scendendo gli aramei. Il re di Israele fece spedizione nel luogo indicatogli dall'uomo di Dio e riguardo al quale gli l'aveva ammonito, e là se ne stette in guardia, non una né due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo per questo fatto, il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro: non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re di Israele? Uno degli ufficiali rispose: no, o re mio signore, ma Eliseo, profeta di Israele, riferisce al re di Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto. Quegli disse: andate a scoprire dov'è costui, lo manderò a prendere. Gli fu riferito: sta a Dotan. Egli mandò la carri e cavalli e una schiera consistente, vi giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse: oimè mio signore, come faremo? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò così: signore, apri i suoi occhi perché veda. Il signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Poi scesero verso di lui ed Eliseo pregò il Signore dicendo: colpisci questa gente di cecità. E il Signore li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo: non è questa la strada e non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Egli li condusse a Samaria. Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: Signore, apri gli occhi di costoro perché vedano. Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a Samaria. Quando li vide, il re di Israele disse a Eliseo: li devo colpire, padre mio? Egli rispose: non colpire. Sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada e con il tuo arco? Piuttosto metti davanti a loro pane e acqua, mangino e bevano e poi se ne vadano dal loro signore. Si preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non penetrarono più nella terra di Israele. Quindi ricordiamo sempre che abbiamo degli alleati potenti nella lotta contro i nemici della nostra salvezza. Poi c'è un episodio che mostra come Eliseo conosceva il futuro. 8, 7, 17. Eliseo andò a Damasco. A Ben-Hadad, re di Aram, che era ammalato, fu riferito: l'uomo di Dio è venuto qui. Il re disse a Cazael: prendi con te un dono e vai incontro all'uomo di Dio e per suo mezzo interroga il Signore dicendo: guarirò da questa malattia? Cazael andò incontro prendendo con sé in regalo tutte le cose migliori di Damasco. Un carico di 40 cammelli, arrivato, stette davanti a lui e gli disse: tuo figlio Ben-Hadad, re di Aram, mi ha mandato con te la domanda: guarirò da questa malattia? Eliseo gli disse: va a dirgli, guarirai di sicuro, ma il Signore mi ha mostrato che egli certamente morirà. Poi immobilizzò il suo volto e rigì il suo sguardo fino all'estremo, e alla fine l'uomo di Dio si mise a piangere. Cazael disse: per quale motivo il mio Signore piange? Egli rispose: perché so quanto male farei agli israeliti. Brucerai le loro fortezze, ucciderai di spade i loro giovani, sfracellerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinte. Cazael disse: ma che cos'è il tuo servo, questo cane, per poter fare una cosa così enorme? Eliseo rispose: il Signore mi ha mostrato che tu sarai re di Aram. Quello partì da Eliseo e tornò dal suo padrone, che gli domandò: che cosa ti ha detto Eliseo? E rispose: mi ha detto guarirei di sicuro. Il giorno dopo costui prese una coperta, l'immerse nell'acqua e poi la stese sulla faccia del re che morì. E al suo posto divenne re Cazael, come aveva profetizzato Eliseo. Vedete la conoscenza certa degli eventi futuri e contingenti, altro dono straordinario di quest'uomo di Dio. Attenzione, abbiamo quasi finito, saltiamo a pie pari una sezione dove si succedono una serie di re di Israele che combinano, tanto per fare una cosa nuova, guai. Andiamo a vedere la morte di Eliseo e poi concluderemo con un episodio abbastanza grazioso. Quando Eliseo si ammalò della malattia di cui morì, Joas, re di Israele, scese da lui, scoppiò in pianto in sua presenza dicendo: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri. Eliseo gli disse: va a prendere arco e frecce, ed egli prese arco e frecce per lui. Disse ancora Eliseo al re di Israele: metti la tua mano sull'arco. Dopo che egli ebbe messa la mano, Eliseo mise le sue mani sopra le mani del re e quindi disse: apri la finestra verso oriente. Dopo che egli ebbe aperta la finestra, Eliseo disse: tira, Joas tirò. Eliseo disse: freccia vittoriosa del Signore, freccia vittoriosa contro Aram, tu colpirai Aram ad Afek sino a finirlo. Eliseo disse: prendi le frecce. E quando quegli le ebbe prese, disse al re di Israele: colpisci la terra. Ed egli la percosse 3 volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si indignò contro di lui e disse: colpendo 5 o 6 volte avresti colpito Aram sino a finirlo, ora invece sconfiggerai Aram solo 3 volte. Eliseo morì e lo seppellirono. Nell'anno successivo alcune bande di Moab penetrarono nella terra. E ora attenti, perché c'è l'epilogo di Eliseo, è questo, cioè c'è anche un miracolo postumo. Quindi Eliseo è morto, ma nei versetti seguenti: mentre seppellivano un uomo, alcuni, visto un gruppo di razziatori, gettarono quell'uomo sul sepolcro di Eliseo e se ne andarono. L'uomo, venuto a contatto con le ossa di Eliseo, riacquistò la vita e si alzò sui suoi piedi. Quindi, le reliquie del corpo di Eliseo hanno risuscitato un altro morto. Ecco, va bene, quindi questa è la storia. Eliseo è un po' un personaggio emblematico che rappresenta, come dire, il prototipo dell'uomo di Dio. Ecco, uomo di Dio è un uomo in senso forte. Quindi l'uomo di Dio è un uomo che appartiene al Signore e con cui il Signore opera, anche attraverso dei segni straordinari ed inequivocabili della sua presenza, come è successo ad Eliseo, come poi sarà per antonomasia con Gesù, che era Dio in persona, e con tutti gli amici di Dio susseguenti a Gesù. Ce ne sono ancora in giro, Voi dovete sapere che adesso sulla terra ci sono persone che stanno facendo i miracoli, adesso, oggi, mentre io sto parlando. Ecco, quindi, siccome siamo troppo cattivi, a noi il Signore non ce li fa conoscere, ma quelli che fanno i miracoli ci sono sempre stati, d'accordo? Come segni della presenza di Dio in mezzo al suo popolo e della sua benevolenza verso ciascuno di noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.